Bravo! Corso di lingua italiana e civiltà. Livello elementare e avanzato. Di Caterin Caterinov e Maria Clotilde Boriosi Caterinov. Edizioni scolastiche Bruno Mondadori. Tredicesima unità. In automobile. Dialogo. Un incidente d'auto. Oh, buongiorno, signora Luzzi. Tutto bene? Tutto male, vorrà dire. Ho appena avuto un incidente con la macchina, mezz'ora fa, mentre venivo a casa dall'ufficio. Oh, mi spiace. Si è fatta molto male? No, no. Per fortuna avevo la cintura di sicurezza allacciata, ma la macchina, un disastro. Ma come è successo? Niente. Andavo tranquilla per Viale Romagna, quando un tizio, un ragazzo, avrà avuto 20 anni, mi ha tagliato la strada. E come mai? Il solito incosciente. Prima mi ha sorpassato a sinistra e poi è rientrato subito a destra a tutta velocità perché doveva girare al semaforo. Ma lei andava molto forte? No, guidavo pianissimo. Ma è successo così all'improvviso che non ce l'ho fatta a frenare in tempo. E la sua macchina? Ha avuto molti danni? Non le dico. Il cofano sfasciato, la portiera di sinistra tutta rovinata. E pensare che era quasi nuova. Purtroppo si incontrano molti pazzi al volante. Poteva andare anche peggio, sa? Sì, qui si rischia la vita ogni giorno. Un tempo la gente faceva più attenzione. Forse sì, ma c'erano anche meno macchine in circolazione. E poi, ai miei tempi, i ragazzi giravano in bicicletta. Proviamoci insieme. Esercizio 3. Ascoltate e ripetete. Oh, buongiorno, signora Luzzi. Tutto bene? Tutto male, vorrà dire. Ho appena avuto un incidente con la macchina, mezz'ora fa, mentre venivo a casa dall'ufficio. Oh, mi spiace. Si è fatta molto male? No, no. Per fortuna avevo la cintura di sicurezza allacciata. Ma la macchina? Un disastro! Ma come è successo? Niente. Andavo tranquilla per Viale Romagna, quando un tizio, un ragazzo, avrà avuto 20 anni, mi ha tagliato la strada. E come mai? Il solito incosciente. Prima mi ha sorpassato a sinistra e poi è rientrato subito a destra a tutta velocità perché doveva girare al semaforo. Ma lei andava molto forte? No, guidavo pianissimo. Ma è successo così all'improvviso che non ce l'ho fatta a frenare in tempo. E la sua macchina? Ha avuto molti danni? Non le dico. Il cofano sfasciato, la portiera di sinistra tutta rovinata. E pensare che era quasi nuova. Purtroppo si incontrano molti pazzi al volante. Poteva andare anche peggio, sa? Sì, qui si rischia la vita ogni giorno. Un tempo la gente faceva più attenzione. Forse sì, ma c'erano anche meno macchine in circolazione. E poi, ai miei tempi, i ragazzi giravano in bicicletta. Vocaboli, pagina 329. Volante. Cambio. Portabagagli. Motore. Vocaboli, pagina 330. Sedile posteriore. Specchietto. Parabrezza. Cruscotto. Vocaboli, pagina 332. Giocare con i cugini. Andare in vacanza. Stare dai nonni. Guardare la televisione. Tredicesima unità. Ascolta e rispondi. Esercizio 22. Crisi del settimo anno. Da un po' di tempo non sei più tu. Sei molto cambiata. In che senso? Prima eri allegra, ridevi spesso, ti vestivi alla moda, ti truccavi con cura, mi preparavi dei bei pranzetti. Ora invece... Ora invece? Sei sempre di cattivo umore. Ti trascuri nel vestire, sei diventata una pessima cuoca. Mi sai dire che ti è successo? E tu? Credi di essere lo stesso di prima? No, caro. Ti assicuro che anche tu sei cambiato. E certamente in peggio. Come fai a dirlo? I primi anni di matrimonio eri affettuoso, ricordi? Mi regalavi spesso dei fiori. Mi aiutavi in casa. Mi davi una mano con i bambini. E ora? Non ricordi neppure l'anniversario del nostro matrimonio. Non ti occupi dei figli. Sei diventato chiuso, distratto. Guarda, se sapevo che andava a finire così, non ti sposavo di sicuro. Ora stai esagerando. Non credo proprio. Su, via. Adesso basta discutere. Cerchiamo invece di provvedere. Facciamo il punto. Comprensione orale, pagina 344. Cominciamo dalla data. Quando è successo l'incidente? Il 9 scorso, alle 8:30. Ecco, lo scriva qui. Dove è successo? In viale Marconi. A Roma, vero? Sì, qui. Ci sono stati dei feriti? Uno solo, lieve. C'erano testimoni? Sì, una signora che stava portando a scuola il figlio. Mi sono fatta dare il nome e l'indirizzo. Molto bene. Le scriva qui, possibilmente in stampatello. Poi compili i punti relativi alla sua macchina, cioè i dati della persona che ha assicurato il veicolo, eccetera, fino al nome della persona che guidava la macchina. Ecco, va bene così? Sì, certo. Non compili, per favore, la parte destra del modulo. Questa deve essere compilata dall'altro conducente. E poi tutte e due devono firmare. Ah, è vero. Un momento. E poi c'è anche il grafico dell'incidente. Vede, lo deve fare qui, in questo spazio vuoto, in modo che sia chiara la dinamica dell'incidente.